Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. A casa nostra, quell'anno, la Pasqua fu celebrata con una cena sola, anziché con due successive. Era stato mio padre a volere così. Con Ernesto in Francia a studiare, aveva detto, non era davvero il caso che pensassimo a una Pasqua come quelle degli anni passati. E poi, a parte questo, in che modo si sarebbe potuto? I miei Finzi Contini, anche questa volta, erano stati bravissimi. Con la scusa del giardino, erano riusciti a tenersi tutte le serve che avevano voluto, facendole passare per contadine addette ai lavori dell'orto. Ma noi? Da quando si era dovuto licenziare l'Elisa e la Mariuccia e al loro posto prendere quella specie di pesce lesso della vecchia Cohen, noi eravamo rimasti praticamente senza personale di servizio. In simili condizioni, i miracoli non li avrebbe potuto fare nemmeno nostra madre. Non è vero, angelo mio? L'angelo mio non nutriva per la sessantenne signorina ricca Cohen, distinta pensionata della comunità, sentimenti molto più caldi di quelli di mio padre. Oltre a gioire, come sempre, quando sentiva uno di noi parlar male della poverina, la mamma aveva aderito con sincera gratitudine all'idea di una Pasqua in tono minore. Benissimo, aveva approvato. Una cena sola, quella della prima sera, e limitata a un massimo di 10 invitati, che cosa ci voleva a prepararla? Tra lei e Fanny, loro due se la sarebbero cavata quasi da sole, senza che quella là, e accennava intanto alla Cohen, esiliatasi spontaneamente in cucina, avesse da inalberare per questo uno dei suoi soliti musi. Ecco, magari, giusto perché quella là non fosse obbligata a troppe spole con piatti e scodelle, a rischio, tra l'altro, male in gambe come era, di combinare qualche disastro, ci sarebbe stata da fare semmai una cosa, invece che in salone, così distante dalla cucina, e quest'anno, data la neve, più freddo d'una Siberia, invece che in salone, apparecchiare qui, in tinello. Non fu una cena allegra. Al centro del tavolo, il canestro che custodiva insieme coi bocconi rituali la terrina del Haroset, i cespi d'erba amara, il pane azzimo e l'uovo sodo riservato a me, il primogenito, troneggiava inutilmente sotto il fazzoletto di seta bianco e azzurro ricamato 40 anni prima dalla nonna Esther. Per quanto apparecchiato con ogni cura, anzi, proprio per questo, il tavolo del tinello aveva assunto un aspetto assai simile a quello che offriva le sere del Kippur, quando veniva preparato soltanto per loro, i morti familiari, le cui ossa giacevano laggiù, nel cimitero al termine di via Montebello, e tuttavia erano ben presenti qui, in spirito e in effigie. Qui, ai loro posti, questa sera sedevamo noi, i vivi, ma ridotti di numero rispetto a un tempo, e non più lieti, ridenti, vocianti, bensì tristi e pensierosi, come morti. Io guardavo mio padre e mia madre, ambedue in pochi mesi molto invecchiati. Guardavo Fanny, che aveva ormai 15 anni, ma come se un arcano timore ne avesse arrestato lo sviluppo, non ne dimostrava più di 12. Guardavo ad uno in giro, zii e cugini, gran parte dei quali, di lì a qualche anno, sarebbero stati inghiottiti dai forni crematori tedeschi, e non lo immaginavano, no, certo, che sarebbero finiti così. E neppure io lo immaginavo, ma ciò non di meno, già allora, quella sera, anche se li vedevo tanto insignificanti nei poveri visi sormontati dai cappellucci borghesi o incorniciati dalle borghesi permanenti, anche se li sapevo tanto ottusi di mente, tanto disadatti a valutare la reale portata dell'oggi e a leggere nel domani, già allora mi apparivano avvolti della stessa aura di misteriosa fatalità statuaria che li avvolge adesso nella memoria. Guardavo la vecchia Cohen, le rare volte che si azzardava ad affacciarsi dalla porta di cucina. Ricca Cohen, la distinta zitella sessantenne, uscita dall'ospizio di via Vittoria per andare a far la serva in una casa di correligionari benestanti, ma di nient'altro desiderosa che di ritornarci nell'ospizio e di morirvi prima che i tempi ancora peggiorassero. Guardavo infine me, riflesso dentro l'acqua opaca della specchiera di fronte, non diverso dagli altri. Anch'io già un po' canuto, preso anche io nel medesimo ingranaggio, e tuttavia riluttante, non ancora rassegnato. Io non ero morto, mi dicevo. Io ero ancora ben vivo. Ma allora, se ancora vivevo, a che scopo? Come potevo restare lì, insieme con gli altri? Perché non mi sottraevo subito a quel disperato e grottesco convegno di spettri? O almeno non mi turavo le orecchie per non sentire più parlare di discriminazioni, di meriti patriottici, di certificati d'arianità, di quarti di sangue, per non udire più la gretta lamentela, la monotona, grigia, inutile trenodia che consanguinei e parenti intonavano sommessi intorno a me? La cena si sarebbe trascinata così, chissà per quante ore, fra discorsi rimasticati, con mio padre rievocante ogni tanto, amaro e deliziato, i vari affronti che aveva dovuto subire durante quegli ultimi mesi, a cominciare da quando, in federazione, il segretario federale console bolognesi gli aveva annunciato con occhi colpevoli, addolorati, di esser costretto a cancellarlo dalla lista degli iscritti al partito, per finire a quando, con occhi non meno rattristati, il presidente del circolo dei commercianti lo aveva convocato per comunicargli di dover considerarlo dimissionario. E ne avrebbe avute da raccontare. Fino a mezzanotte, fino all'una, fino alle due. E poi? Poi ci sarebbe stata la scena ultima, quella degli addii. Già la vedevo. Eravamo scesi tutti in gruppo giù per le scale buie, come un gregge oppresso. Giunti nel portico, qualcuno, forse io, era andato avanti a socchiudere il portone di strada ed ora, per l'ultima volta, prima di separarci, si rinnovavano da parte di tutti, me compreso, i buonanotte, gli auguri, le strette di mano, gli abbracci, i baci sulle gote. Se non che, improvvisamente, dal portone rimasto mezzo aperto, là contro il nero della notte, ecco irrompere nel portico una raffica di vento. È vento d'uragano e viene dalla notte. Piomba nel portico, lo attraversa, oltrepassa fischiando i cancelli che separano il portico dal giardino e intanto ha disperso a forza chi ancora voleva trattenersi, ha zittito di botto col suo urlo selvaggio chi ancora indugiava a parlare. Voci esili, gridi sottili, subito sopraffatti, soffiati via, tutti, come foglie leggere, come pezzi di carta, come capelli d'una chioma incanutita dagli anni o dal terrore. Oh, Ernesto, in fondo, era stato fortunato a non poter fare l'università in Italia. Scriveva da Grenoble che soffriva la fame, che delle lezioni del Politecnico, col poco francese che sapeva, non gli riusciva di capire quasi niente. Ma felice lui, che soffriva la fame e temeva di non farcela a superare gli esami, quello di matematica soprattutto. Io ero restato qui, e per me, che ero restato, e ancora una volta avevo scelto per orgoglio e aridità la solitudine, nutrendola di vaghe, nebulose, impotenti speranze, per me in realtà non c'era speranza, non c'era nessuna speranza. Ma chi può mai prevedere? Che cosa possiamo sapere di noi e di ciò a cui andiamo incontro? Verso le 11, infatti, mentre mio padre, allo scopo evidente di dissipare la musoneria generale, aveva appena cominciato a cantare la filastrocca pasquale del Capret che aveva comperai il signor padre, era la sua preferita, il suo cavallo di battaglia, come diceva, mi accadde a un certo punto, levando per caso gli occhi alla specchiera di fronte, di notare l'uscio dello sgabuzzino del telefono socchiudersi pian piano dietro le mie spalle. Attraverso lo spiraglio spuntò, cauto, il viso della vecchia Cohen. Guardava me, proprio me, e pareva quasi che chiedesse aiuto. Mi alzai, mi avvicinai. «Che cosa c'è?» Accennò al ricevitore del telefono penzolante dal filo e sparì dall'altra parte, attraverso l'uscio che metteva nell'ingresso. Rimasto solo, nel buio più assoluto, ancor prima di accostare all'orecchio il ricevitore, riconobbi la voce di Alberto. «Sento cantare!» gridava. stranamente festoso. «A che punto siete?» «Al Capretka vi comperai il signor padre», risposi. «Ah, bene, noi abbiamo già finito. Perché non ti fai vedere?» «Adesso!» esclamai stupito. «Perché no? Qui la conversazione comincia a languire e tu, con le tue ben note risorse, potresti senz'altro tirarla su», ridacchiò. E poi, soggiunse, «ti abbiamo preparato una sorpresa». «Una sorpresa? E in che cosa consisterebbe? Vieni e vedrai». Quanti misteri! Il cuore mi batteva furiosamente. «Carte in tavola. Su, non farti pregare, ti dico, vieni e vedrai». Passai direttamente nell'ingresso, presi cappotto, sciarpa e cappello, misi la testa in cucina, raccomandando sottovoce alla Cohen di dire, se per caso mi avessero cercato, che ero dovuto uscire un momento, e due minuti dopo ero già per strada. Era una splendida notte di luna, gelida, limpidissima. Per le vie non passava nessuno, o quasi, e corso Giovecca e corso Ercole Primo d'Este, d'un biancore quasi salino, si aprivano dinanzi a me, lisci e sgombri, come due grandi piste. Pedalavo al centro della strada, in piena luce, con le orecchie indolenzite dal gelo, ma a cena avevo bevuto parecchi bicchieri di vino e il freddo non lo sentivo, anzi, sudavo. Le gomme della bicicletta frusciavano leggermente nella neve indurita e l'asciutto polverio che sollevavano mi riempiva d'un senso d'allegria spericolata, come se stessi sciando. Andavo in fretta, senza paura di sbandare. Intanto pensavo alla sorpresa che, secondo le parole di Alberto, avrebbe dovuto aspettarmi a casa Finzi Contini. Cos'era? Forse tornata Micol? Però era strano. Per quale ragione non era venuta lei al telefono? E perché, prima di cena, non si era fatta vedere al tempio? Se al tempio ci fosse stata, lo avrei già saputo. Mio padre, a tavola, facendo la solita rassegna dei presenti alla funzione, l'aveva fatta anche per me, per rimproverarmi indirettamente di non essere intervenuto, non si sarebbe certo dimenticato di nominarla. Li aveva nominati tutti, Finzi Contini e Herrera, ma lei no. Possibile che fosse arrivata per conto suo all'ultimo momento, col direttissimo delle 9:15. Nel chiarore anche più intenso della neve e della luna, mi inoltrai attraverso il barchetto del duca, puntando sulla Magna Domus. A metà strada, ricordo, poco prima che infilassi il ponte sul canale Panfilio, mi si parò dinanzi improvvisamente un'ombra gigantesca. Era Ior. Lo riconobbi con un attimo di ritardo, quando già stavo per gridare. Ma non appena l'ebbi riconosciuto, lo spavento si tramutò in me in un senso quasi altrettanto paralizzante di presagio. Dunque, era vero, mi dicevo. Micol era tornata. Avvertita dal campanello di strada, si era alzata da tavola, era scesa da basso e adesso, mandatomi incontro Ior, mi aspettava sulla soglia della porticina secondaria che serviva unicamente ai familiari e agli intimi. Poche pedalate ancora e quindi Micol, proprio lei, figuretta bruna, incisa su uno sfondo di luce bianchissima, da centrale elettrica, e lambita alle spalle dall'alito protettore del calorifero. Ancora qualche secondo e avrei udito la sua voce, il suo ciao. «Ciao», fece Micol, ferma sulla soglia. «Che bravo a venire». Avevo previsto tutto con molta esattezza. Tutto, tranne che l'avrei baciata. Ero sceso di sella. Avevo risposto «Ciao». «Da quando sei qui?» Lei aveva avuto ancora il tempo di dire «Da oggi pomeriggio ho fatto il viaggio con gli zii e poi...» «Poi...» L'avevo baciata. Era accaduto d'un tratto. «Ma come?» Stavo tuttora col viso nascosto nel collo tiepido e profumato di lei. Era un profumo strano, un odore misto di pelle infantile e borotalco, e già me lo chiedevo. Come era potuto succedere? L'avevo abbracciata. Lei aveva compiuto un debole tentativo di resistenza. Infine mi aveva lasciato fare. Era andata così? Forse era andata così. Ma ora? Mi staccai lentamente. Adesso lei era lì, il viso a 20 centimetri dal mio. La fissavo senza parlare né muovermi, incredulo, già incredulo. addossata allo stipite della porta, le spalle coperte da uno scialle di lana nero, anche lei mi fissava in silenzio. Mi guardava negli occhi e il suo sguardo entrava in me dritto, sicuro, duro, con la limpida inesorabilità di una spada. Fui io il primo a distogliere gli occhi. «Scusa», mormorai. «Perché scusa? Sono stata io, forse, che ho sbagliato a venirti incontro. La colpa è mia». Scosse il capo. Poi abbozzò un sorriso buono, affettuoso. «Quanta bella neve», fece, accennando col mento al parco. «Pensa, a Venezia mai, neanche un centimetro. Se sapevo che qui ne era venuta tanta...» Terminò con un gesto della mano destra. L'aveva tirata fuori da sotto lo scialle e subito notai un anello. Le presi il polso. «Cos'è?» chiesi, toccando l'anello con la punta dell'indice. Fece una smorfia, come di disprezzo. «Mi sono fidanzata, non lo sai?» Immediatamente dopo scoppiò in una gran risata. «Ma no, su, non vedi che scherzo? È un anellino da niente, guarda!» Se lo tolse con un gran movimento dei gomiti, me lo dette, ed era davvero un anellino da niente, un cerchietto d'oro con una piccola turchese. Glielo aveva regalato la nonna regina molti anni addietro, spiegò, nascondendoglielo dentro un ovetto di Pasqua. Riavuto l'anello, tornò a infilarselo, quindi mi prese per mano. «Adesso vieni», sussurrò, «che se no di sopra sono capaci, e rise, di stare in pensiero». Durante il tragitto, sempre tenendomi per mano, sulle scale si fermò. Mi scrutò alla luce le labbra, concludendo l'esame con un disinvolto «ottimo», non smise un momento di parlare con grande volubilità. «Sì», diceva, «la faccenda della tesi era andata meglio di quanto avesse osato sperare. In sede di discussione di laurea aveva tenuto banco per un'ora buona, concionando per diritto e per traverso. Alla fine l'avevano mandata fuori e lei, dietro la porta a vetri smerigliati dell'aula magna, aveva potuto ascoltare comodamente tutto quello che il collegio dei professori aveva detto sul suo conto. La maggioranza propendeva per la lode, ma ce n'era uno, il professore di tedesco, un nazista della più bell'acqua, che non ne voleva sapere. Era stato estremamente esplicito la degna persona. Secondo lui, la lode non avrebbe potuto esserle conferita senza provocare un gravissimo scandalo. «Ma come?» gridava. «La signorina era ebrea. Oltre a ciò non risultava nemmeno discriminata e si parlava addirittura di lodarla. Oibò, di grazia che le fosse stato concesso di laurearsi». Il relatore, quello d'inglese, appoggiato anche da altri, aveva controbattuto con molta energia che la scuola era la scuola, che l'intelligenza e la preparazione, bontà sua, non avevano niente da spartire coi gruppi sanguigni, eccetera, eccetera. Quando però era arrivato il momento di tirare le somme, ovvio, si capisce, prevedibile trionfo del nazista, e a lei non era rimasta altra soddisfazione, a parte le scuse che più tardi, rincorrendo laggiù per le scale di Ca' Foscari, il professore d'inglese le aveva fatto, poveretto, gli tremava il mento, aveva le lacrime agli occhi. A lei non era rimasta altra soddisfazione che quella di accogliere il verdetto col più impeccabile dei saluti romani. Il preside della facoltà, nell'atto di nominarla dottore, aveva alzato il braccio. Come avrebbe dovuto comportarsi, lei? Limitarsi a un vezzoso cenno del capo? Eh no. Rideva allegrissima, e anch'io ridevo, elettrizzato, raccontandole a mia volta, con lusso di particolari comici, della mia espulsione dalla biblioteca comunale. Quando le chiesi, tuttavia, per qual motivo, dopo essersi laureata, si fosse fermata a Venezia ancora un altro mese, a Venezia, aggiunsi, dove, a sentir lei, non solamente non ci si era mai trovata bene come città, ma dove non poteva contare su nessun amico, né femmina, né maschio, a questo punto si fece seria. Ritirò la mano dalla mia, gettandomi per tutta risposta una rapida occhiata laterale. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli.